8. Ascolta e indica il soggetto. Hai un euro? 1. Avete un documento? 2. Non abbiamo il dizionario. 3. Ho il passaporto in tasca. 4. Signora, ha una penna? 5. Hanno molti amici. 6. Ha un documento valido? 7. Sì, ce l'ha. 8. Non hai un telefono? 9. Signori, avete i biglietti? 10. In tasca ho molte monete. 11. Lucia ha una bella casa. 12. Alberto e Giacomo hanno molti amici. 13. Giorgio ed io non abbiamo molti soldi.